le scame della tua pelle. Era una mattina fredda, la rugiada della pioggia scivolava sotto i lineamenti. Le scame della tua pelle lasciavano i loro ritardi e lasciavano tracce della tua vita e lasciavano tracce del tuo camminare. I tuoi occhi vedevano in lontananza e il tuo istinto vedevano ancora più lontano. L'odore della terra bagnata nel tuo seno quando respiravi e il fresco umido della fredda mattina ti faceva rizzare la pelle alta senza congelare l'epidermide. Le tue impronte si riflettavano nel fango, si riflettavano nella erba selvatica anche. Era ora di tornare della tua solita passeggiata mattutina. Proprio mentre il sole stava sorgendo allo zenith. Era una mattina fredda. La rugiada di pioggia scivolava sotto i lineamenti. Le scame della tua pelle lasciavano i loro ritardi e lasciavano tracce della tua vita e lasciavano tracce del tuo camminare. I tuoi occhi vedevano in lontananza e il tuo istinto vedevano ancora più lontano. Lui Cesare, il cavaliere.